Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, mio fianco vestito.